faccio è solo vanità. Vi spaccate la testa, chissà chi vincerà, ma siete della moria, solo le tue metà. Le leggi sono solo un mucchio di bla bla, io non le ho mai viste in questa realtà. Non sono che invenzioni di mamma e papà, i buoni e i cattivi, ma che immaturità. Io gioco coi cattivi, ma solo per giocare, e mi diverto solo se qualcuno si fa male, perché il dolore è vero e mi fa divertire. Tutto è una risata, è bello essere incivile. Faccio accordi con l'ex ma lo tradisco per scherzare. Non disdegno mai un bel inganno occasionale, tanto tutti quanti prima o poi dobbiamo morire. Ma è ben più esilarante con veleno di fucile. Se niente ha senso, tutto va bene, allora son pazzo, assì mi conviene. Se il mondo è un gioco, gli darò fuoca, almeno risplenderà. Io mangio da McDonald's e bevo Coca-Cola, simpatico nel video ma un orrore se mi viola, perché le conseguenze delle mie azioni non soltanto le ignoro ma spero siano tifoni. Sì, so molto bene che devasto il mondo, non sono un ignorante ma un bastardo immondo, amico di tutti al bar e anche in disco. Se bisogno sparisco, se mi dà senso, a tutto va bene, allora son pazzo, assì mi conviene. Se tutto un gioco, gli darò fuoco, almeno risplenderà. Tu ogni tanto tremi, hai dubbi o no? Sono in crisi costante, non vado in crisi con niente. Tu ogni tanto tremi, hai dubbi? Io no, io sono in crisi costante, non vado in crisi con niente. Se niente ha senso, tutto va bene, allora son pazzo, assì mi conviene. Se non lo gioco, gli darò fuoco, almeno risplenderà.